Il punto di Stefano Folli. Il voto di fiducia sul disegno di legge anticorruzione è passato senza intoppi alla Camera. È passato con l'assenza di un piccolo gruppo di deputati del PDL, molti dei quali berlusconiani intransigenti. Ma questo è significativo per due motivi. Primo, perché dimostra che il governo Monti è in grado di andare avanti anche senza l'apporto di questo drappello minoritario. Secondo, che lo stesso Berlusconi per il momento non ha intenzione di andare oltre il segnale lanciato l'altro giorno da Villa Germetto con quel discorso davvero destabilizzante. Una linea che però ha trovato, come sappiamo, la resistenza di tutto lo Stato Maggiore del PDL, a cominciare da Alfano. E il risultato si è visto ieri a Montecitorio. Certo, nessuno sarebbe così pazzo da far saltare il governo proprio sulla legge anticorruzione, però quei 400 voti e oltre che il governo ha ricevuto sono un messaggio rassicurante per le prossime scadenze.